Zolt. Fulminati in azienda. Allora, schedula, cos'è st'altro corso per manager che dove manna? Certo, Centri, ho studiato a fondo i nostri bisogni formativi e ho deciso di mettere su un percorso formativo di 7 incontri che accompagni il management verso la comprensione totale e dei bisogni dell'altro. Ma altro che, qua dovevamo risolvere i nostri bisogni, abbiamo bisogno di vende. Sul pezzo ha detto che dovevamo aggredire il mercato. No, non aggressività, ti ripeto, bisogna impostare il meeting sull'empatia. Questo deve essere il centro del messaggio. Ma che stai a dire? A parte che se chiedi a tutti i manager cos'è l'empatia, una migliore e dei ipotesi ti dicono che è una forma di mal de fegato. Ma voi che stiamo 7 giorni a parlare empatia? No, ma dai, ma sono d'accordo con Schedule. È importante che il management capisca che bisogna sentire, soffrire, gioire con gli altri, con i colleghi, con i clienti. Esatto. I sentimenti in azienda sono fondamentali. Anch'io da consulente credo che si possa parlare di sentimenti in azienda con i dovuti modi, con una certa misura. Ma cos'è, in azienda o una telenovela? Buongiorno a tutti, allora CS, voglio dire, ci siamo pronti per il corso della prossima settimana o no? Pronti? Ma no che non siamo pronti, a quest'ora dovremmo avere già dato il brief al formatore, preparato le presentazioni in PowerPoint, organizzato le esercitazioni psicosociali, convocato i partecipanti. E poi non siamo ancora d'accordo sul tema da affrontare nel corso, questa è la verità. Ma come non siamo d'accordo sul tema da affrontare nel corso? Ma adesso io non so cosa ne pensa il consulente, ma un corso senza un tema, che corso è? Da consulente esterno valuto che mancando una settimana sarebbe opportuno trovare un argomento per il corso. Un corso senza argomento potrebbe rivelarsi inutile. Bravo, vedi il mio consulente, mi dai dire soddisfazione, mi fa piacere pagarti, perché ci dai sempre dei preziosi consigli. Sì, ma dov'è che andiamo a fare il corso, scusa? Ah, infatti, dove andiamo questa volta? Dove andiamo? No, scusate, sono io che lo chiedo a Typhont, non hai prenotato le stanze in albergo? Io? L'albergo? No, doveva farlo Centrifuga. Ma manco per idea, avevi detto lo facevi tu. No. Ma allora NCS, come sempre NCS, non ci siamo, ma forza di discutere del tema. Ma nessuno si è ricordato di prenotarmi le stanze. Ma incredibile, dove dormono i partecipanti? Vabbè, dormono durante il corso, come sempre, morti de noia. Allora ragazzi, adesso che abbiamo terminato la giornata del nostro corso di empatia, abbiamo capito che feelings sono pillars fondamenta del wellness aziendale. A Donald, è stato un corso veramente bello, te lo devo proprio dire, guarda, soprattutto quando avevamo fatto piagna a fonte. Ah, ma guarda, non potevo non commuovermi quando mi hai rivelato com'è cambiata la tua vita da quando ti è venuta l'ernia iatale. È questa l'empatia, recognizing il dolore e il grief dell'altro, stargli vicini. E per questo stanotte dormiremo tutti insieme in una camerata. Font, quanto è bravo sto Donald. È riuscito a trovare una giustificazione per il fatto che l'unico posto libero per dormire che abbiamo trovato è una caserma. Dormire geniale. Vicini, sentire che siamo insieme, questo è un modo per sentirci una community. Centri, ma non è che tu russi? Guarda come un trombone, con mia moglie dormiamo in stanze separate da 9 anni. Donald, scusa, ma questa notte posso mettere i tappi per le orecchie nella camerata? Sai, un paio di soffici batuffoli rosa. Font, se tu non senti i suoni della notte, il respiro, il brief profondo dei colleghi, gli uccelli all'alba, tu perdi, losing, il contatto emotivo, emotions. Ho capito, vabbè. Però, ma ci sarebbe qualcuno che invece canti una ninna nanna, sai, magari quelle di una volta, per un sano recupero delle tradizioni, insomma. Guarda, te la canto io, Fonta ninna nanna, stanotte. Sonata unica per trombone. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z2O 1T.